Vabbè, buonasera a tutti. Un'edizione particolare della Terra Trema. Abbiamo iniziato con un po' di difficoltà. Ci sono parecchi produttori dispersi per l'Italia, in mezzo alla neve. Qualcuno non è neanche riuscito a uscire di casa. Quindi siamo un po' anche provati da questa settimana a costruire questa iniziativa. L'idea era quella di iniziare con la presentazione delle carte della Terra, che è una delle cose che in qualche modo ci hanno visto lavorarci al di là dell'evento Terra Trema, dei 3 giorni, dell'iniziativa al Leoncavallo. E in realtà è un progetto semplice e complesso allo stesso tempo. Nel senso che per ora le carte della Terra, vabbè, al Folletto, fin da quando abbiamo iniziato l'avventura di Critical Wine e poi Terra Trema, abbiamo deciso di tenere nel nostro bar il vino dei vignaioli che venivano alla Terra Trema, molto semplicemente. E però abbiamo deciso anche di costruire una carta particolare che fosse anche veicolo di comunicazione di quello che è il senso o una parte del senso di quello che vogliamo dire facendo questa iniziativa e progetto, insomma. E poi quest'anno ne è partita una anche a Leoncavallo e quindi innanzitutto una delle prime caratteristiche delle carte è che sono una diversa dall'altra, nel senso che non è che c'è dei produttori fissi e degli schemi fissi della carta. In base allo spazio che decide di adottare questa carta, sceglie chiaramente i vini e sceglie i prezzi che fa. E quindi la carta del Folletto ha delle particolarità. La carta del Folletto soprattutto è una carta che cambia spesso, nel senso che comunque i produttori che sono all'interno della carta sono cambiati negli anni. Un po' perché siamo curiosi di cambiare, un po' anche per non rimanere fissi e costruire una relazione chiusa con solo alcuni produttori. Appunto, poi Leo quest'anno ne ha adottata una, e anche lì diversa in base anche alle esigenze del Leoncavallo, e sicuramente è stato un passaggio importante anche rispetto alle economie che girano, alle bottiglie vendute e comprate, perché chiaramente il numero di persone che passa in questo spazio è notevole rispetto a quello che può essere un piccolo spazio come il Folletto. Poi da qualche mese un altro pezzettino interessante è stata adottata presso l'agriturismo Caremma nel punto ristoro della cascina, insomma, dell'agriturismo. E anche lì è molto interessante l'esperienza perché è un contesto che esce un po' da quello che è, diciamo così, gli spazi sociali, gli spazi occupati, i centri sociali. E anche lì è una carta diversa dalle altre due. Che cosa accomuna le tre carte? Forse sono tre le cose fondamentali. Uno è che non ci sono mediatori, rappresentanti, distributori. Nel senso che noi come Folletto non abbiamo fatto i distributori. Chiaramente abbiamo fatto i facilitatori di questa carta, perché comunque conoscevamo tutti i produttori, l'abbiamo proposta noi, la veste grafica l'abbiamo ideata noi, però non mediavamo con Gabriele, con il Leoncavallo, chiaramente con il Folletto sì, siamo noi e il produttore, ma il rapporto è diretto, quindi non c'è nessuno che media questa cosa. L'altra cosa è il famoso prezzo sorgente, che forse per la prima volta viene applicato, nel senso che nella carta compare il prezzo che il produttore fa in cantina e il prezzo che il Leo, il Folletto e la Caremma in questi casi, in questo caso, perché finora sono tre, fanno nei loro posti. L'altra cosa importante è che c'è l'autocertificazione. Le autocertificazioni che avete tutti sul banco sono nella carta. Queste sono le cose così. C'è qua Gabriele, ci sono alcuni produttori che hanno partecipato a questa esperienza. Ci piaceva l'idea di presentarla chiaramente abbiamo cercato, adesso non so se qua c'è qualche altro ristoratore, qualche altro spazio, sappiamo ad esempio che i ragazzi di un altro centro sociale la vogliono adottare, qualche ristorante agriturismo ci ha contattato, non abbiamo, qualche locale anche a Milano ci ha contattato per questa cosa qua. Noi chiaramente a tutti loro gli avevamo rimandato questo momento, nel senso, perché poi per noi incomincia a diventare un peso, nel senso che per noi va bene, poi quando diventano tante anche seguire tutto questo processo diventa complicato, perché l'idea è quella che, infatti, sia per Gabriele sia per il Leoncavallo noi in qualche modo abbiamo fatto partire la cosa, però poi dopo si sono arrangiati loro, il rapporto con, appunto, il rapporto diretto tra Gabriele, il Leo e il Folletto con il produttore. Incomincio a dire due cose veloci rispetto a quello che è la nostra esperienza, così poi sarebbe bello appunto che magari Gabriele ci racconta il perché ha deciso di adottarla, magari ci racconta anche come sta andando in un agriturismo importante come quello di Gabriele, che comunque è un agriturismo in cui passano parecchie persone, riconosciuto e tutta una serie di aspetti diversi. Rispetto agli spazi come il Folletto, sicuramente una cosa, gli aspetti positivi e belli sono, uno, che comunque abbiamo fatto un salto di qualità nel vino che diamo e nel prodotto che abbiamo lì. E quindi, insomma, la gente che era abituata, cioè, c'è un po', che poi è un po' la continuazione di quello che sono i tre giorni qua, no? A Milano, penso che dalla critica, dal 2003 ad oggi, ci sia una cultura diversa in questa città e una piccola parte rispetto al vino e una piccola parte di questo cambiamento, di questo interesse, pensiamo di avere il merito sta in questa esperienza qua, insomma. E quindi al Folletto ormai la gente ritorna, ti chiede del vino, di chi lo fa, come lo fa, tutta una serie di cose, cioè c'è una conoscenza che aumenta giorno per giorno. A Leoncavallo uguale, nel senso, ieri eravamo in cucina, chi frequenta il Leoncavallo quotidianamente sa benissimo qual è la cultura rispetto al vino, le persone che vengono a Leoncavallo quotidianamente, che tipo di vino bevono, che tipo di rapporto hanno con gli alcolici, con quelle sostanze. È stato bellissimo vedere la cucina e vedere le bottiglie della Terra Trema che non ci sono soltanto in questi tre giorni, ma che sono sui tavoli della cucina tutti i giorni. Quindi direi un bel passo in avanti. Poi il piacere del rapporto diretto. Vabbè, noi con un sacco di produttori li siamo andati a trovare, sappiamo come, cioè, nel senso, c'è un rapporto diretto con i produttori, di crescita, di conoscenza reciproca anche, perché comunque anche venire al Folletto e chiacchierare della carta o andare noi là, insomma, è importante. E poi c'è il discorso economico. Chiaramente noi muoviamo un'economia molto piccola, però è già significativo quel processo lì, nel senso che comunque non stiamo facendo arricchire Peroni o Heineken, che l'abbiamo già fatta arricchire tanto, gli spazi sociali occupati l'hanno fatta arricchire tanto, questi personaggi qua. E lì invece dici, cazzo, cioè alla fine, cioè, sto dando il giusto compenso a chi sappiamo come lavora e tutta una serie di cose. E lo stesso noi, nel senso, cioè, entrano dei soldi per le strutture del Folletto in quel modo lì, insomma. Buono, io mi fermo qua. Se ci sono delle domande anche sulla carta, non so, magari do la parola a Gabriele che ci racconta invece la sua di esperienza. Che penso che sia diversa, simile per alcuni punti, ma...